Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di una donna bellissima, una attrice, ma per i critici cinematografici un'attrice mediocre, spesso inadeguata alle parti che le attribuivano. Parliamo di una che è conosciuta per pochi cult movies, eppure ha fatto parte di una Hollywood che ha lasciato il segno. Parliamo di una donna sensuale, sogno erotico di molti adolescenti, e di una che affascinò anche uno come David Bowie, per esempio. Una che non si è mai sentita una star neanche al culmine del suo successo, non ha mai amato il ruolo di diva. Parliamo di colei che recitò nel capolavoro La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. Parliamo di Kim Novak. E lei nasce alle 3 del mattino di lunedì 13 febbraio 33 a Chicago. Il padre si aspetta che almeno il secondogenito sia un bel maschio, e invece arriva una femmina. Nessuno è pronto a darle un nome, ogni parente scrive un nome su un foglietto e poi decide il caso. Viene estratto il biglietto scritto dallo zio materno, che aveva deciso per Marilyn. La piccola si chiamerà Marilyn Novak, cognome di origine boema perché i nonni paterni sono emigrati da Praga e il padre Joseph trova lavoro a Chicago, qui che conosce Blanche, una ragazza di origine cecoslovacca. Si innamorano, si sposano, il loro matrimonio faticoso, il desiderio di Joseph di lasciare Chicago per tornare a vivere nell'Oregon da cui proveniva è una delle cause dei grandi dissapori. Ma loro sono molto cattolici, rimangono insieme per tutta la vita, perché l'idea del divorzio per una coppia del genere è inconcepibile. Marilyn ha un'educazione rigida, poche manifestazioni di affetto. Lei è una bambina tranquilla, introversa, un po' timida, un po' impacciata, dirà la madre, sempre assorta nel suo mondo. Una bambina molto magra, più alta delle sue compagne, vittima di bullismo, e la famiglia non l'aiuta molto, anzi paragona sempre le due sorelle. La sorella maggiore, Arlene, è quella che vince questi paragoni, è considerata la più bella e la più intelligente. Ma lei ama la natura, amore trasmessole dal padre, così nel giardino di casa crea un rifugio per i randagi, cani, gatti, conigli, polli, uccelli abbandonati, un po' tipo la canzone di Gianni Morandi, Me lo compri papà. E questo amore per gli animali che la accompagnerà per sempre. Lei osserva il paesaggio, sta sempre in disparte, insomma la madre comincia a preoccuparsi, cerca in tutti i modi di farle superare la sua terribile timidezza, e la iscrive a corsi di ballo, di canto, lei non ne vuole sapere. Poi succede qualcosa, è la prima di una serie di fatti che cambieranno la vita di Kim Novak, non ancora Kim. Ce lo racconta Michelangelo Capua nella sua biografia. La svolta decisiva avviene quando Kim ha 13 anni. Blanche la iscrive ad un'associazione per giovani ragazze chiamata The Fair Teens Club, sperando che, stando a contatto con le sue coetanee fuori dall'ambiente scolastico e lontano dalla sorella Arlene, potesse vincere in qualche modo quella innaturale timidezza che ancora la affliggeva. Il club era sponsorizzato da un grande magazzino di Chicago. Le socie erano incoraggiate, dietro un piccolo compenso, a fare da modelle per capi d'abbigliamento per teenager. Lentamente, la giovane goffa Marilyn si trasforma in una bella ragazza dai lunghi capelli castani e dagli occhi azzurri leggermente obliqui, e viene sempre più spesso scelta come modella, acquistando più sicurezza nell'accettare il suo aspetto fisico. E così Marilyn inizia a partecipare a qualche concorso di bellezza locale, insomma finisce per fare la modella part-time dopo la scuola, nel weekend, porta a casa qualche soldo. Intanto si iscrive al Wright Junior College, dove per puro caso inizia a seguire un corso di recitazione. È giovane, pensa ancora che da grande farà la veterinaria, ma Hollywood la scopre prima, come poi racconterà lei stessa. Il falco e il gabbiano. A questa ragazzina che ancora si chiama Marilyn e che poi noi conosceremo come Kim Novak viene insegnato fin da piccolo a non esprimere i sentimenti, così appena può si arrampica su un albero vicino a casa e rimane per ore a fantasticare, a scrivere poesia, a disegnare. E lei disegna su un quadernetto che si porta sempre dietro, coltiva la sua passione per l'arte e per il disegno. Intanto guadagna qualche soldo facendo la modella, fino a quando non arriva l'estate del 53, l'estate della svolta e del colpo d'ala. Perché lei inizia un tour con altre tre ragazze per promuovere una ditta di frigoriferi, l'occasione per uscire di casa, per viaggiare, con abiti corti, munite di un bel sorriso. Le modelle dovevano cantare su un piccolo palco e pubblicizzare il nuovo modello di frigorifero da promuovere. Arrivati a Los Angeles, finito il lavoro, lei si ferma in città, si rende disponibile anche a fare la comparsa nei film. Ecco cosa dice di lei la sua amica Norma Castle, che poi diventò la sua agente. La prima volta che ho incontrato Kim ero la responsabile pubblicitaria di un grande magazzino di Chicago. Kim aveva 13 anni allora, estremamente timida e impacciata, ma aveva un'aria particolare. Quasi contro la sua volontà, l'ho spinta a fare l'indossatrice e ad apparire in alcuni programmi radiofonici e televisivi. E tutto questo l'ha spinta ad uscire dal suo guscio. Presto ha iniziato a vincere premi di bellezza, come Reginetta del Lago Michigan e Miss Deep Freeze. E poi, durante un tour per modelle in California, è stata notata dal talent chief della Columbia, Max Arno, che le ha proposto un contratto per $100 alla settimana. Così compare per pochi secondi nel film di Lloyd Bacon La linea francese, interpretato da Jane Russell, e si fa notare. Il coreografo del film avvisa Maxwell Arnold, uno tra i più importanti talent scout della Columbia Pictures, che la chiama per un provino. La Columbia è alla ricerca di un volto nuovo da far competere contro la rivale della 20th Century Fox, quella che ha messo sotto contratto, ed è quella che diventerà la bionda più famosa del mondo, è l'astro nascente Marilyn Monroe. Però il provino è un flop, lei arriva in ritardo, balbetta davanti al regista, è congelata, non sa recitare, non riescono neanche a capire quello che dice. Che me ne faccio di questa, commenterà Harry Cohn, il presidente della Columbia Pictures. E invece qualcosa si farà, perché viene convinto dai suoi assistenti, la metterà a contratto per 6 mesi. Lei non sa recitare, però ha una fortissima presenza scenica, buca lo schermo, basta guardarla per rimanere senza fiato. Sono perfettamente d'accordo. Manca una cosa: l'eleganza, l'aura di glamour della diva, ma il potenziale c'è e anche su questo si può lavorare. La prima svolta alla carriera della nostra protagonista riguarda il nome. In quel periodo Marilyn è solo Marilyn, non ci si può chiamare così, e il cambio del nome è necessario. La Columbia le propone Kit Marlowe. Dopo un testa a testa tra la ragazza e il super boss si arriva a un compromesso: Kim Novak, il nome lo cambia, ma il cognome, a cui lei si sente molto legata, no. Come in un reality show, viene presa, trasformata in poche settimane, la mettono a dieta, le impongono un severo ciclo di allenamenti, sessioni di trucco e parrucco, trattamenti estetici, massaggi, riemerge una bionda platinata, sensuale ma sempre naturale. Subito le viene offerta una parte in Criminale di turno, dopo il rifiuto di Rita Hayworth. Viene diretta da Richard Quine, è il suo film di debutto. We could have that money, Paul. You and I. Think what that money could mean to us. A cold-blooded guy, a hot-blooded blonde. Like to take me home? È il 1954, lei ha 21 anni e sin dall'inizio dimostra la sua abilità nell'impersonare una scaltra seduttrice. È l'inizio di una carriera brillante, perché il suo esordio viene ben accolto dalla critica, tanto che sull'Hollywood Reporter di lei scriveranno così: il mondo ha adesso un'Ava Gardner bionda. Il suo nome è Kim Novak e sono sicuro che sentiremo parlare molto di lei. Con un volto e un corpo da far sognare gli uomini e una personalità alla Harlow che può mettere in agitazione le donne, ha dimostrato in Criminale di turno di non essere soltanto una modella che sa recitare, ma è molto vicina a un'attrice modello. E un anno dopo è nel cast dell'Uomo dal Braccio d'Oro del 55, un film particolare, forse il film come dire più di peso, interpretato da Frank Sinatra. Si parla di droga nel 55, è invidiata da molte donne per il fatto di aver recitato a fianco dell'uomo considerato più affascinante di tutti, e poi recita accanto a William Holden nel film invece molto romantico Picnic. Kid, I'll show you a step I learned in LA. E su queste note del brano Moon Glow si gira la scena del ballo tra i due protagonisti, Al e Madge, Holden e la Novak, il giorno di feste e picnic in una piccola cittadina di provincia del Kansas. La scena in cui i due si avvicinano e ballano è una scena che fa un certo scalpore, perché i loro sguardi e le movenze della Novak, stretta in un corpetto che esalta tutte le forme, fa salire la tensione erotica. E pensate anche a come sono cambiati i tempi, anche spesso come siano più grossolane le sex symbol di oggi. Pochi mesi dopo l'uscita dei due film al cinema, lei risponderà così a chi le chiederà come è stato recitare accanto a due uomini così affascinanti come Frank Sinatra e William Holden. È divertente, come tutti vogliano sapere, i fan specialmente, com'è lavorare con uno come William Holden o Frank Sinatra. Non è facile a dirsi, sono due persone molto diverse, ma Frank ad esempio è una persona molto intensa e molto perfezionista, cosa che ho apprezzato molto. Bill invece è un perfetto gentiluomo, l'uomo ideale. Tutti lo vedrebbero proprio come è sullo schermo, è molto gentile e lavorare con lui è piacevole, anche se è molto esigente. Very exacting. Picnic è un film che lancia la carriera della Novak. Lei non ha mai studiato a lungo recitazione, ha sempre avuto molto timore durante le riprese, e lo racconta proprio lei. I love that movie. I identified so much with my growing up. Ho amato quel film, mi sono identificata tantissimo. Aveva un bellissimo copione, facile. Mi è piaciuto molto recitare, perché sono una persona molto timida. E quando mi trovavo ad interpretare un personaggio, diventavo il mio personaggio. Era l'unico modo in cui riuscivo a recitare, anche perché non avevo l'esperienza di molte altre attrici. Anche al mio insegnante dissi: «Oddio, ma come farò a recitare in un film? Non lo so, non so recitare». E lui mi rispose: «Non devi recitare, quello che gli attori cercano di fare è semplicemente essere veri». E quindi, grazie a Dio, questo è ciò che fa funzionare i miei film anche oggi, perché non ero finta. Kim Novak negli anni 60 è all'apice della carriera, interpreta commedie principalmente, tra cui successi Una strega in paradiso del 58, in cui forma un grande terzetto con James Stewart e Jack Lemmon, e poi Paljoy dell'anno prima, in cui non teme la concorrenza della coprotagonista Rita Hayworth. Il falco e il gabbiano. Vi stiamo raccontando quella che oggi è una signora bionda, poco vistosa, elegante, con le mani, ahimè, contorte da una artrosi impietosa che ha, perché questa signora bionda ha 83 anni, però questa donna ha passato almeno due vite, quella del cinema, quella dei grandi successi, e quella più personale e intima, lontana dai riflettori del set. Stiamo parlando di una donna che, come dirà qualcuno, per esempio il regista Richard Quinn, dà l'idea di essere contemporaneamente una dama in un salotto di classe e una prostituta in camera da letto. Che Dio benedica le donne così. Vi stiamo raccontando Kim Novak, e siamo arrivati a questa timida e insicura ragazza che la Columbia Pictures ha lanciato come erede di Rita Hayworth e come rivale da contrapporre a Marilyn Monroe. Abbiamo puntato sul suo misterioso fascino che ha creato un'icona del cinema anni 50 e 60. E il film con cui lei si è imposta l'attenzione del mondo è del 58, è Vertigo, la donna che visse due volte al fianco di James Stewart, una delle storie d'amore più angoscianti del cinema, raccontata attraverso riprese straordinarie realizzate in alcuni dei luoghi più famosi di San Francisco. Vorrei che tu seguissi mia moglie. Ho paura che qualcuno possa farle del male. Madeleine ha 26 anni. E Carlotta Valdese si è suicidata alla stessa età. Se fossi pazza, tutto si spiegherebbe facilmente. Ed è Hitchcock che la chiama a ricoprire il doppio ruolo della raffinata Madeleine e della procace Judy, e con questo ruolo lei entra nella storia del cinema. I think the role appealed to me because it was the resistance of Judy. Credo che questo ruolo mi sia piaciuto perché c'era la resistenza di Judy, che in un certo senso ero io, che cercava di diventare una persona di Hollywood, cercando di diventare Madeleine, avendo bisogno di essere amata e disposta a farsi cambiare. Lei diventa cieca e ha un esaurimento, ma poi pensa che non sia giusto e quindi si rialza e alla fine pensa: se diventassi lei, ameresti me? Mi ricordo che quando l'ho interpretata mi sono sentita assolutamente spogliata. Mi sono sentita davvero vulnerabile. I felt so vulnerable. E proprio quella parte in cui Kim interpreta due donne e due vite è l'esatta metafora della sua esistenza. Poi, completate le riprese della donna che visse due volte, i boss della Columbia la esortano a frequentare di più i colleghi di Hollywood, a farsi vedere nei posti alla moda. È così che a un party incontra il cantante di colore Sammy Davis Jr., in quel momento all'apice della popolarità, e le riviste di pettegolezzi scrivono litri di inchiostro su quella presunta relazione, in un periodo peraltro in cui negli Stati del Sud c'è ancora la segregazione razziale. Insomma, la Columbia Picture non gradisce, e anche se Kim Novak dirà sempre che è stata un'affettuosa amicizia. Quello che è certo è che Kim prosegue a recitare ancora per anni, si trasferisce a New York dalla California e inizia a lamentarsi del fatto che viene troppo spesso trattata come un oggetto in mano alla casa di produzione. Intanto però si ritaglia un piccolo studio dove dipingere, compra una casa a Big Sur sul mare della California, una specie di rifugio dove stare lontana dai riflettori. Last night her housekeeper Eunice Murray noticed that Miss Monroe still had her bedroom light on at midnight. At 3 a.m. Miss Murray found the light still on, the door locked. A physician hurriedly summoned broke a bedroom window, found the actress dead in bed. Proprio a Big Sur, mentre osserva dalla finestra le onde del mare, il 5 agosto del 62 Kim apprende la notizia della morte di Marilyn Monroe. Lei si sente molto affine alla sua omonima e insomma capisce che per non morire come donna, come persona, prima o poi dovrà far morire la diva che è in lei. Intanto si sposa con Richard Johnson nel 65, un anno dopo è già divorziata, si ritira ancora nel suo amato luogo intimo, cioè Big Sur, si dedica sempre più ai suoi animali, ai suoi interessi artistici, ma col passare del tempo sente sempre di più la distanza tra lei e il mondo del cinema. Insomma, dopo aver fatto parte di film come Quando muore una stella del 68, lei decide di lasciare da parte il suo successo, i soldi, la vita mondana, per dedicarsi a una vita e a un mondo completamente diverso, ritirato, a contatto con la natura, con i suoi amati animali, dedicandosi soprattutto alla pittura. Una delle sue passioni sin da piccola, come ha rivelato a Larry King in una delle sue rare interviste nel 2004. Ho sempre pensato che sarei diventata una pittrice. Hollywood mi ha aperto tante porte e così ho pensato che fosse il posto giusto. Ma in un certo senso non ho mai pensato di aver dato davvero il mio contributo. Io volevo davvero e ho dato tutto ciò che avevo, ma al tempo sembrava che la gente mi vedesse solo e soprattutto come una ragazza attraente. E lei diventa ambasciatrice di bambini bisognosi e soprattutto dedita, come dire, alla difesa degli animali. E qui succede un episodio proprio conseguente a questa sua attitudine. Una sua cavalla si ammala gravemente e lei in piena notte chiama un veterinario di cui le hanno parlato molto bene, come scrive nella sua biografia Michele Capua. Il dottor Robert Bob Mallory si precipitò subito a curare la bestia malata. Assieme, con delle torce, si recarono nelle scuderie e poiché era una freddissima notte d'inverno, Kim lo invitò a restare. I due rimasero in contatto con la scusa di parlare della convalescenza della cavalla. Si rividero e scoprirono di avere molte cose in comune, dall'amore per la natura e per gli animali allo stesso tranquillo modo di vivere. La scintilla scoccò e i due si innamorarono l'uno dell'altra. Bob aveva 7 anni in meno di Kim. Era divorziato con 2 bambine, Lisa e Rebecca. E lui è l'uomo giusto, la vede come una persona, non come una leggenda. Lo racconta lei stessa nell'86. Quando ho incontrato Bob avevo già 3 capre e 1 lama e forse un altro paio di animali e 2 cavalli. Ma quando Bob ha incontrato il mio lama, non è stato amore a prima vista, perché il mio lama ed io eravamo molto legati. Ed ogni volta che Bob e io cercavamo di stare insieme, il lama si metteva in mezzo ed era molto gelosa e protettiva, quasi una minaccia. E da quel momento le luci su Kim Novak si accendono molto raramente. Nel 78 presenta la notte degli Oscar e poi c'è David Bowie che insiste per averla al suo fianco nel film Gigolò, perché Bowie ne subisce il fascino. E poi c'è il film Assassini allo specchio, dove partecipano vecchie glorie del cinema di Hollywood, da Elizabeth Taylor a Rock Carson, da Tony Curtis a Angela Lansbury, e lei accetta e assieme alla Taylor interpreta 2 stelle del cinema rivali, entrambe sul viale del tramonto, che tentavano un ritorno sugli schermi. E c'è una scena che passerà alla storia. Marina cara, non ti avevo ancora vista. Mia dolce Lola, che piacevolissima sorpresa. Sai tesoro, sei davvero in forma. Devo dire che queste luci così basse ti donano molto. Si notano appena le zampe di gallina che hai intorno agli occhi. Oh, tu non potevi notarle comunque. Non riesci a vedere a un palmo dal tuo naso. Ho sempre adorato il tuo senso dell'humor. Vedo con gioia che non soltanto hai mantenuto il tuo figurino, ma l'hai sensibilmente aumentato. Che cosa sei venuta a fare qui, cara? Credevo che il congresso sulla chirurgia plastica fosse in Svizzera. Ecco, a dir la verità, muoio dalla voglia di cominciare il nostro film. Conosci il detto? Chi è stata attrice resta sempre attrice. Oh, sì, certo che lo conosco. Però non vedo che cosa c'entri con te. Dolce Angelo, sono molto curiosa. Voglio sapere se è così emozionante dopo tanto tempo tornare sul set. E beh, il rapporto tra le donne dello spettacolo è così anche oggi, soltanto che non hanno l'intelligenza di queste due e non si dicono battute così divertenti. Kim Novak tornerà qualche altra volta per la TV, farà dei camei in Falcon Crest, poi aiuterà a promuovere la diffusione della versione restaurata del capolavoro di Hitchcock, prenderà l'orso d'oro alla carriera nel 97 al Festival del Cinema di Berlino. Poi nel 2000 un incendio distrugge il suo ranch nell'Oregon con tutto quello che c'è dentro, compreso un lungo lavoro per la sua autobiografia. E poi c'è una grave caduta da cavallo e poi c'è un tumore al seno. Insomma, una vita difficile in questa fase, però lei si rialza e va sempre avanti. Agli Oscar del 2014 gli amanti del cinema la rivedono quando premia il miglior cortometraggio e lungometraggio di animazione insieme a Matthew McConaughey. Ha un viso gonfio, la voce lenta e bassa. Yeah, well, they work with unshackled minds. I mean, they've got so much freedom and it's beautiful to see. Pure creativity, incredible writing. Yeah. Yeah. You know, I gotta take a minute just to say that I'm really glad to be here. It's been a long time. Ma quel viso senza rughe scatena i reporter, i critici americani, così a 81 anni suonati. Lei tramite i social network decide di rispondere alle violente critiche sui suoi interventi di chirurgia estetica e su Facebook scrive così. L'anno scorso sono stata festeggiata al Festival di Cannes. ho ricevuto una standing ovation travolgente. Mentre a Hollywood, dopo gli Oscar, sono stata vittima di bullismo da parte della stampa e del pubblico, sia su internet sia in televisione. L'unica differenza è che quella notte avevo preso una pillola per rilassarmi, che non avrei dovuto prendere. Mi dispiace. Sul suo sito Kim mostra i suoi dipinti e scrive: «Ho vissuto una vita lunga e ricca e le meraviglie della natura hanno permesso ai miei occhi di mantenere la loro innocenza. Amore per la famiglia, arte, natura e animali. Questa è la sua vera vita. Hollywood è stata solo una meravigliosa meteora». Ci sono persone che hanno volato in alto e persone che hanno preferito volare un po' più in basso, ma a contatto con la loro vera indole, con la loro vera interiorità, come Kim Novak, grande signora del cinema, con però un modo di fare che ha affascinato generazioni di uomini. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche dare un colpo d'ala che lo porta a volare in alto, a patto di rimanere in pace con se stesso, come ha fatto e come sta facendo ancora Kim Novak. Se volete mandare dei commenti o segnalare vite su cui puntare il mio microfono, visitate la nostra pagina su radio24.it, scriveteci, scrivetemi sui miei social, Facebook, Twitter, su quelli del Falco e il Gabbiano, insomma, se volete, come sapete, mi trovate. Ciao, a domani.